Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:20 minuti. Ci siamo, caro Oscar. Eccoci qua. Il tuo Torino non ce l'ha fatta. Poteva darci una gioia. Largamente preconizzato che finiva così. E comunque, detto questo, poi a un certo punto, da una certa ora in poi, nella tardo pomeriggio, le notizie andavano, insomma, voglio dire, le orecchie andavano da tutt'altra parte. Purtroppo ancora il terremoto. È stato favorevole al fatto che a Pescara la partita dell'Adriatica non l'hanno sospesa, ma io non so, ci sono delle cose che quando vengono i terremoti mi lasciano abbastanza. Ma lì bisogna capire la valutazione, chi la deve prendere, la responsabilità immediata, non c'è mai una catena di comando su queste cose. Però insomma, ancora la terra trema, terremoto tra Marche e Umbria. C'è un morto registrato, ma per spavento, diciamolo francamente. Infarto. Però siamo ancora a fare i conti con queste cose. Purtroppo quei paesi sono abbastanza spianati dalle prime notizie di ieri e poi confermate adesso a far dell'alba. Purtroppo per la popolazione grandissima solidarietà, perché pioveva, c'è stata la corrente elettrica, quindi situazioni molto... Ma tra l'altro diciamolo subito, Oscar, ovviamente chiamateci se volete all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666, se siete in quelle zone, se avete testimonianze. Sapete che Radio 24 è un canale aperto, è vostro oltre che nostro. Diciamo che l'unica cosa politica da dire per il momento è che ovviamente la richiesta italiana alla Commissione europea, su cui si sono appuntate anche le osservazioni che sono venute dalla Commissione europea, diventano più forti, questa è la maggior forza. E questo lo dico senza nessuna intenzione di scambiare purtroppo il bilancio di questo ennesimo colpo che si accanisce contro il centro Italia con polemiche politiche. Fai bene, Oscar, a dirlo anche oggi. Sul Sole c'è scritto: l'Italia deve rispondere all'Europa che ci contesta l'eccezionalità delle spese per la questione sismica. Purtroppo la realtà, che drammaticamente vediamo anche ieri, fa gioco all'Italia a dire no, vedete che c'è una emergenza da affrontare. E nel frattempo la coincidenza lì. Ieri mattina, mentre andavamo in onda, c'erano le prime notizie sugli arresti della tangente. Ci richiama poi a un altro corno di questo problema, di quando si interviene con le grandi opere, le infrastrutture, le costruzioni. Non lo so, sembra sempre che il tempo riproponga sempre le stesse cose. Ovvio, queste intercettazioni, anche lì poi arrivano le intercettazioni, bisogna immaginare che siano quelle volte a creare maggior interesse, a colpire di più, eccetera. Ma è sempre uguale, non so, io a volte mi interrogo e dico ma... Questo è vero. Dall'altra parte mi ricordo anche però che Ettore Incalza, il super manager del Ministero delle Infrastrutture, è arrivato 4 giorni fa al 16° proscioglimento dei diversi tronconi d'inchiesta sulle grandi opere che portano al suo arresto. Quanto ricordi quando c'era Lupi ministro e così via? E mi dico anche in quel caso, Allora, caro Oscar, i santi però. I santi. Allora, ieri avevamo ricordato che per volontà di alcuni nostri ascoltatori avevamo anticipato un santo che in realtà si ricorda oggi, Sant'Evaristo Papa, e quindi Beccalossi, lo ricordiamo. Io l'unico Evaristo. Evaristo Beccalossi. Tra l'altro, oggi, tra i diversi santi, non molti oggi, ce n'è una che è molto venerata in Francia, perché è San Balsania, che era la nutrice di San Remigio. È un grande santo della Francia, perché è colui che poi convertì re dei Franchi, no? Clodoveo e così via. E anche la sua nutrice, per il latte con cui nutrì San Remigio da piccolo, è una delle sante che in Francia è molto venerata. Per quello che riguarda ciò che avvenne, va ricordato oggi, nel 1904 New York oggi inaugurava la sua metropolitana, pensate un po'. Nel 1962 moriva Mattei, nel 1995 Craxi veniva condannato per corruzione appunto a 4 anni in contumacia, e tra i compleanni la faccio breve, dico solo auguri a Benigni, Roberto Benigni, oggi compie gli anni. Roberto Benigni. Allora, ripeto, 800 24 00 24. Tra l'altro, Oscar, vogliamo parlare anche, hai visto questa notizia rilanciata dal Messaggero, rilanciata dal quotidiano La Verità, dei 767 vigili urbani di Roma, vi ricordate, a Capodanno di 3 anni fa, tutti incredibilmente, con una coincidenza astrale, malati o indisponibili per un giorno la notte di Capodanno, nello stesso momento. L'ho visto, ma l'ho anche commentato appena sul Messaggero, è una vicenda che lascia senza parole. In questo caso, ricordiamo i nostri ascoltatori, è il giudice del lavoro, il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Roma, che ha deciso che quei 767, cioè l'83,5% del totale dell'organico del corpo che a Capodanno 2015 non prestarono servizio, non è stato, ha deciso il tribunale, uno sciopero selvaggio. E anzi, esatto, ha detto che la multa che è stata comminata poi nel marzo di quell'anno dall'autorità garante per lo sciopero va annullata e quindi i sindacati la devono restituire. Sì. E se aggiungi a questo che alla fine di quei 767 nell'indagine disciplinare interna non superarono i 30 i vigili, e che invece gli oltre 100 medici, questo mi fece ben sperare, che finirono nell'occhio della procura per false attestazioni sanitarie o per averle delegato ad altri medici o per aver dato ad altri, a terzi, cosa che non possono fare, le password per le comunicazioni IMSS che non fecero loro, oltre 100, la maggior parte di loro stanno anche uscendo dall'inchiesta. Il messaggio unico che arriva è uno: abbiamo scherzato, è stata una coincidenza, una casualità, non è vero che erano quei sindacati a combattere contro l'allora capo del corpo Clemente, che voleva la rotazione dei vigili, e il risultato è che hanno stravinto non solo il giudice del lavoro dà ragione sul fatto che non nasce pro selvaggio, ma nel frattempo Clemente non è più alla testa dei vigili di Roma, quindi è rimasto tutto esattamente com'era. Insomma, il messaggio era: chi non è furbo dei dipendenti pubblici è meglio che si faccia furbo, perché finisce tutto in cavalleria. Ma tra l'altro, Oscar, mi risulta che non solo abbiamo, come tu hai ricordato, un'autorità garante sugli scioperi che multò alcune di queste sigle sindacali, ma il Tribunale del Lavoro, respingendo questa multa, ha anche condannato il garante a pagare le spese processuali. Esatto. Sì, sì, cioè, schiaffo, come dire, d'ora in poi, come direbbe pensaci un politico, pensaci due volte, Campano, muto devi stare, cara autorità, sì, muta. Erano 20.000 euro, credo, ogni sigla sindacale che era stata combinata di multa, tolta la multa e condannato il garante a pagare. Faccio notare, le spese altro processuali, per segnalare che il Comune di Roma non si è costituito nel procedimento di fronte al giudice del lavoro. Esatto. Il che la dice lunga sui criteri che vuole seguire, altro che voltare pagina. No, ma insomma, quando si parla di dipendenti pubblici, abbiamo parlato tante volte, il problema c'è. Tra l'altro, noi abbiamo chiamato un sindaco, perché ci ha colpito la notizia proprio ieri sul Messaggero. Il sindaco è Sulmona, in provincia dell'Aquila. Il sindaco è Anna Maria Casini, che salutiamo e la ringraziamo di essere qui. Buongiorno. Anche perché, sindaco, l'abbiamo chiamata per ovviamente quel tema, ma la cronaca impone e mi risulta, insomma, che il terremoto sia stato sentito anche dalle vostre parti. È così? E voi come avete reagito? Sì, purtroppo questo autunno si sta rivelando molto impegnativo per la nostra città. Ieri si è sentito molto forte. Noi abbiamo percepito fino a 4 punti di magnitudo, quindi c'è stata una grande apprensione. Oggi io ho disposto la chiusura delle scuole per verificare, comunque fare una verifica di eventuali danni. Quindi oggi scuole chiuse sì, a Sulmona. Tutte chiuse, come la maggior parte dei comuni abruzzesi, comunque, perché Insomma, la paura. D'altronde, il ricordo anche dell'Aquila è un ricordo talmente vivo, talmente fresco che anche Amatrice ci ha dato un'altra bella. Come no, assolutamente, assolutamente. Allora, e questo è, come ripeto, Radio 24 seguirà tutto il giorno questa vicenda. Però, sindaco, noi l'abbiamo chiamata perché ci dica un po' quanti dipendenti, dica lei i numeri, quanti dipendenti avete in comune? Allora, noi abbiamo circa 130 dipendenti. 130. Di questi, quanti sono finiti nel mirino perché accusati di essere truffatori, di fatto, no? I cartellini, magari. Quanti di questi sono indagati? Allora, premetto che io, in qualità di sindaco, non ho ricevuto nessuna comunicazione formale rispetto a questi procedimenti in corso. Sì. Quindi tutti i numeri io li apprendo dalla stampa, così come voi. Quanti per sarebbero? Cui i numeri sarebbero 46, quasi un 50%. Lei si trova sì, con diciamo un terzo più o un meno. Sì, un po' di più, quasi, ripeto, il 50% sarebbero sì, 50, 52, siamo a 46. E quindi, perché lei dice, lei che è sindaco da poco, dice si rischia la paralisi del comune, e posso capire, ma nessuno si è mai accorto, di cosa sono accusate queste persone? Allora, da quello che ho potuto vedere, insomma, dalle immagini che sono scorse e dalle notizie che sono state diramate dalla Guardia di Finanza, l'anno scorso, quindi diversi mesi fa, sono state fatte delle rilevazioni attraverso telecamere, per cui sono accusati di aver, diciamo, timbrato per altri, dal posto di lavoro, di aver, quindi una truffa aggravata di fatto nei confronti della pubblica amministrazione. Ma signor sindaco, ma con una percentuale così elevata del totale dei dipendenti, la domanda da fare è: ma i dirigenti non la vedevano? La vedevano ed erano collusi? Oppure veniva praticata? Questo adesso si dovrà tutto vedere, però, perché io, insomma, naturalmente, nel momento in cui si accerteranno i fatti nella maniera definitiva, quindi con tabulati, notifiche concrete, noi andremo avanti con tutto l'iter procedimentale e sanzionatorio del caso. Per cui sì, sanzionatorio. Sa che c'è la riforma Madia, sì. Si dice, si possono licenziare. Intanto, dovesse essere accertato che qualche suo dipendente ha fatto il furbetto, come si vuol dire, secondo lei andrebbero cacciati? Cioè, se colpevoli? Ci sta una gravità rispetto ad alcuni addebiti molto, molto pesanti, per i quali il licenziamento è previsto proprio dalla norma e quindi è giusto che venga applicato assolutamente. Questo è un magari costruito. si trova in una situazione poi a dire poi il comune chi lo porta avanti mi verrebbe da dire chi se ne frega, ma non in disprezzo ai cittadini che hanno bisogno che il comune funzioni, noi dobbiamo dare un segnale forte e quindi tutelare sicuramente tutti i dipendenti che sono seri, ottimi lavoratori, che ce ne sono molti, i quali oggi stanno vivendo con molta apprensione questa vicenda. Dobbiamo tutelare il comune di Sulmona come amministrazione e come cittadinanza, che rischierebbe di vedere veramente problemi importanti sull'erogazione dei servizi. Sindaco, guardi che a noi la maggior parte delle lettere che arriva, almeno a me personalmente, che mi occupo di queste vicende della pubblica amministrazione da tanti anni, e dopo tanti anni registro regolarmente quanto siano distanti le dichiarazioni dei politici all'indomani rispetto ai fatti che poi avvengono, all'indomani del grande blocco dell'ascensione dei vigili urbani, rispetto ai quali oggi il giudice del lavoro a Roma, il Capodanno 2015, dice che non era uno sciopero selvaggio, tutto a posto, niente multa, anzi l'autorità garante bacchettata. E all'indomani la politica ci disse, fu Renzi come il sindaco Marino, saremo durissimi di qua di là. La gente oramai ci scrive dicendo: sapete che c'è, cara Radio 24, se i servizi vanno avanti senza che nessuno se ne renda conto, a cominciare dai dirigenti preposti e dagli amministratori, che con metà della gente che non lavora è ordinaria amministrazione, ma dove sta scritto che adesso bisogna tutelarli perché altrimenti il servizio è pregiudicato? Tanto se vanno avanti comunque con metà della gente che non lavora, vuol dire che ce n'è metà di troppo, paghiamoli e non creiamo troppi problemi. Ecco, questo per dire alla gente, arriva questo, come messaggio. Questo, purtroppo, anch'io sono un cittadino e prima di fare il sindaco ho vissuto e vivo anche la condizione di cittadino, per cui quello che lei dice è a sacrosanto. Infatti una delle mie preoccupazioni è questa di ordine morale, che io sanziono in maniera e stigmatizzo in maniera totale. Oggi viviamo, e il nostro territorio è un territorio che sta vivendo una grave crisi occupazionale, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani senza lavoro, i dipendenti pubblici sono comunque lavoratori privilegiati, perché oggi, a differenza del comparto privato, non rischiano né reddito brava né posto di lavoro. Brava E quindi questa cosa motiverebbe un maggiore senso di responsabilità, quindi anche, secondo me, al di là di quello che è il dovere ordinario, un impegno ulteriore, proprio perché un ente locale, un comune che è in prima linea ed è quello che eroga i servizi essenziali per una comunità, dovrebbe insomma puntare alla massima efficienza. Eh sì, vede sindaco, effettivamente messaggi ne arrivano anche a dire ma forse se ne togliamo la metà funziona tutto lo stesso. Io secondo me il messaggio è pericoloso, ma infatti anche ma perché non è così purtroppo. Sicuramente perché... ci sarà qualcuno che poi magari è stato pizzicato a guardi, ad assentarsi a... 10 minuti, allora, come ci sarà quello invece che timbrerà sì, per 20 persone. Allora, dobbiamo aspettare, di fronte a queste cose, come le dicevo io stigmatizzo sia moralmente che in maniera da un punto di vista tecnico-amministrativa questa vicenda, però le dico pure che di fronte a dei numeri così alti e di fronte anche a un'indagine che non si è conclusa, o meglio sì. L'indagine credo si sia conclusa, ma la stessa procura ieri, insomma il procuratore ha emanato una sua dichiarazione dicendo che è proprio la sono ancora al vaglio le singole responsabilità, chiaro. Per cui adesso vedremo alla fine i numeri succederà? Reali ma e gli effettivi addetti. Però sindaco è chiaro che 46 su 130, come diceva Oscar Giannino, è evidente che i dirigenti no. O hanno chiuso un occhio o perché non è possibile che quasi non metà vedessero. Del comune sì. Sia impigliato, imbrigliato in queste vicende. E contemporaneamente, ripeto, decisioni come quelle del giudice di Roma arrivano ai dirigenti e anche ai dipendenti onesti pubblici come un disincentivo ma ad chiaro, aprire gli occhi, perché se vincono i furbi comunque ed è un giudice a dargli ragione, ecco perché tra l'altro malgrado tutto quello che dicono, la riforma Madia, quello che ricordavi tu prima Alessandro, come vedi i casi continuano a esserci perché il segnale concreto dei disincentivi a essere deontologicamente corretti continuano a essere numerosi e potenti. Poi come ha detto il sindaco di Sulmona, che ringraziamo, provincia dell'Aquila, Anna Maria Casini, il dipendente pubblico avendo un posto garantito, non rischiando il posto di lavoro, è vero ha vinto un concorso nella grande maggioranza dei casi, e si dovrebbe considerare un privilegiato, che non è un insulto, no, essere considerato carità. Privilegiato e quindi ne significa guadagnare dovere, tantissimo però no, la garanzia esatto. Del posto ha fatto bene il sindaco, è raro che il capo di un'amministrazione che sta in queste è condizioni chiaro, ricordi infatti. Ai dipendenti pubblici e che questa è la condizione questa, bravo questa sindaco. Situazione di privilegio dovrebbe spingerli a fare un dovere con maggiore senso civico, voglio dire, ma sono cose che forse sono un po' fuori il dal nostro tempo. Mondo di idealisti come vedi devo chiamare Tommaso Moro utopia. Ho capito, però quando ci chiedono le tasse ogni 16 del mese a mettere una scadenza varia l'altra. No, quella non è un'utopia. Quella, esatto, è una concreta cosa. Ed è giusto, io non sto dicendo non devo pagare. È giusto. In cambio, però, uno vorrebbe che queste cose poi fossero un po' più rare. Ecco, diciamo così. E poi sto giudice del lavoro. Io sono curioso, io lo rispetto, non voglio querele. Vedremo le sue motivazioni. Però, caro giudice del magari lavoro. Magari venisse a spiegarci. Faticherai un po' a convincerci che fosse un caso, che 767... fossero tutti mal ammalati testa, anche perché 62 dichiararono che si dovevano andare a donare il sangue sì, il 31 dicembre per carità, senso civico altissimo. Come è noto, dopo le bevute di Capodanno il tasso alcolemico nel sangue è tale che ti fai una donazione come senza nessun problema. Allora, noi dopo la pubblicità, tra qualche minuto, caro Oscar, torneremo sulla questione del referendum, perché non ci siamo dimenticati in settimana Milan con il Inter. Professor Fusaro, no, abbiamo parlato del perché sì e perché questa riforma abbatte i costi, diceva il professor Fusaro. Oggi racconteremo il perché no, Ugo Arrigo ci racconta invece che i risparmi non sono quelli che qualcuno ha detto. E quindi così bilanciamo, capisci? Così bilanciamo. Naturalmente, par ascoltatore, se volete, sei par condicio, come Juve Toro, tanto vince la Juve. Più o meno questa cosa, no, quella è una grande. Però partono alla pari. Una grande, chi partono alla pari? Ah, no? Con la Juventus? Perché? Cosa vorresti insinuare? Questo è fantastico. No, è fantastico, sì, hai cosa ragione. Bisogna dire. Vai fino in fondo. No, abbi coraggio. Sei benissimo. No, io non so niente. Sei tu che hai l'eguaglianza detto. Dei punti di partenza quando uno dei due contendenti si chiama Juventus è una fantastica metafora di come funziona l'Italia, infatti. Come ma dire. Non capisco. Adesso durante la pubblicità mi spieghi meglio. Tra poco. Oscar, dobbiamo dare una comunicazione di servizio, perché tanti ascoltatori dicono un altro, dice sistemate la app nuova di Radio 24 che non funziona. Allora, che cade immediatamente. Esatto, ci ha spiegato Valerio Ausiello dal settore tecnico, dovete fare così, disinstallare la vecchia e mettere la nuova. Come alcuni di voi fanno con la moglie, la stessa cosa. Come alcuni di voi fanno con la moglie, con l'app del sole. Vedrete che così funziona. Io parlo di app, tu di moglie, ma va bene. Ho detto come forse. Taluni, come? Sbagliando. Ci chiama Luciano da Vicenza, buongiorno Luciano. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Oscar. Eccoci. Io devo dire una cosa assolutamente antipatica. Bene. E assolutamente controcorrente rispetto a quanto state affermando voi. Cioè, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, bisogna stare molto attenti al discorso di licenziamento di dipendenti pubblici. Per quale motivo? Allora, chi è che dispone il licenziamento? Lo dispongono i vertici e lo dispongono i politici, no? E eventualmente, per esempio, nelle amministrazioni locali sarà l'assessore o altro che prende questi provvedimenti. Il sindaco nelle amministrazioni pubbliche deve essere il vertice che si occupa di queste cose. Ebbene, in queste decine d'anni tutta quella gente che ho nominato adesso è tutta nominata, protetta e raccomandata, nominata in modo clientelare e mafioso. Ebbene, se queste persone non hanno titolo a licenziare dipendenti pubblici, perché poi va a finire che licenzieranno i migliori, cioè licenzieranno la gente che pensa con la propria testa. Quindi il risultato è il risultato, cioè, bisogna, non si può toccare nessuno. Il risultato è un altro. Ha detto non possono licenziare nessuno. Lei l'ha detto, non possono licenziare nessuno. Mi lasci finire il discorso. Licenziamento. Non bisogna intervenire anche sui vertici, bisogna intervenire soprattutto sui vertici. Guardi che soprattutto. Lei quando dice vertici, quindi, vuol dire i dirigenti? Sì, guarda che lo diciamo spesso. Bisogna partire dalle cause. L'abbiamo detto mille volte che il pesce caso di Roma è l'esatto contrario di quello che dice lei. Cioè, arriva il comandante di un corpo dei vigili che di fronte a Roma Capitale dice: siete tutti da 20 anni nello stesso posto, alcuni sono collusi, altri, quelli per bene, stanno sotto, purtroppo, quelli che beccano i soldi, rotazione generale. È contro questo che viene organizzato quello tipo di reazione la notte di Capodanno. È contro questa roba qua, è contro il finto salario di merito spalmato per tutti. Quindi il caso di Roma, mi dispiace doverle contraddire, è l'esatto opposto. Quando alla testa arriva qualcuno che vuole cambiare, si producono reazioni tali per cui, travestite da coincidenza di ammalamento, sì. E oggi ci c'è del lavoro, dà ragione a loro. Però Oscar, quello che dice Luciano, in taluni altri casi, certo, invece, cioè i dirigenti che non vedono e che sono spesso il problema. In molti comuni sono collusi, e i responsabili degli uffici disciplinari del comune a volte sono coloro che a propria volta non sono sul posto di lavoro, e quindi. Però grazie Luciano. Allora, dobbiamo parlare di referendum, perché mettiti un po' il vestito della par condicio, Oscar. Milan-Inter. Eccoci. No, perché preferisco dire Milan-Inter, perché se dico Juventus non c'è par condicio. Abbiamo parlato del perché sì Juventus alla riforma, perché fa risparmiare i costi col professor Fusaro. Oggi ed era la Juventus. C'è con noi il professor Ugo Arrigo. Nella parte del toro. Chi vuole capire capisca Professor Ugo Arrigo, benvenuto in questo, buongiorno. Mercato. No, professor Ugo Arrigo, docente di scienze della finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano. E tra l'altro professor Arrigo ha fatto uno studio molto rigoroso sui costi che verrebbero risparmiati costi costituzionali, costi della politica, voce per voce ha rifatto il conto rispetto a quello che viene vantato rispetto a prima è stato detto 1 miliardo, poi 500 milioni, poi la ragioneria dello Stato ha detto 57,7 milioni. Questa è la cifra che si risparmierebbe con la riforma, professor Arrigo? Ma io con le mie stime io sono sceso a 40, 39 e mezzo a 40. E devo dire che ho fatto questo calcolo. Beh, intanto io fino a qualche anno fa insegnavo anche un corso molto bello che si chiamava Teoria delle scelte collettive, quindi l'approccio economico alla politica. E, sostanzialmente non era possibile risparmiare 1 miliardo, 1,5 miliardi, perché tutto il costo della politica a livello nazionale, delle istituzioni politiche, è 2 miliardi, e quindi non si può risparmiare il 50%. Però rifacendo il calcolo sostanzialmente si risparmiano una quarantina di milioni essenzialmente sui costi del Senato. Le province non danno risparmi ulteriori perché il livello politico, il vertice politico delle province è già stato sostanzialmente reso gratuito dalla legge del Rio del 2014, quindi i presidenti delle province e i consiglieri non prendono più nulla. E idem il CNEL, il presidente del CNEL e i consiglieri del CNEL, che non è ancora stato abrogato, non ricevono più remunerazione dalla legge di stabilità del 2015, sì. Del 2014. Verrebbe abrogato ovviamente con il referendum se passasse la riforma. Viene abrogato il CNEL, però i costi della struttura, del personale, il personale non viene licenziato, la struttura non viene venduta al palazzo, e quindi quei costi lì restano. Quindi lei dice 40 milioni, questo 40 sarebbe. Milioni che sono sostanzialmente le indennità dei senatori totali, 40 milioni sono anche le indennità dei senatori totali. Però da questi 40 milioni bisogna considerare il fatto che poi il fisco non incassa più l'IRPEF e le imposte dirette. E un altro pezzo di risparmio sono sostanzialmente il risparmio sulle diarie e sulle indennità di mandato, e lì si risparmiano un 24 milioni lordi che diventano 19 netti, sulle indennità si risparmiano 40 milioni lordi che diventano 25 netti, la somma delle due voci fa 44, però io ho anche calcolato che poi molti senatori che non potranno avere la riconferma e sostanzialmente se hanno i requisiti chiederanno il vitalizio, la pensione, aumenteranno quindi aumenteranno di circa 4 milioni la spesa del Senato per pensioni. Quindi secondo lei, professor Arrigo, il tema risparmi della politica, comunque il tema risparmi sui costi è un tema che è scentrato rispetto alla questione? Assolutamente scentrato, è stato di moda, è di moda, ma sostanzialmente i costi della politica sono irrisori rispetto al totale della spesa pubblica. Io ho fatto anche una stima globale, la politica costa 4 miliardi all'anno a livello nazionale e locale, quindi le istituzioni politiche, i vertici politici dell'amministrazione pubblica su 830 miliardi di spesa pubblica, meno dello 0,5%. Eppure il titolo della legge che poi trasposto nel quesito come vuole il nostro ordinamento, il risparmio delle spese una parte preminente tre quinti dei temi, cioè la politica come sempre promette una cosa che non mantiene, per però nei 47 articoli cambiati solo due in realtà permettono risparmi, cioè la riduzione del numero dei senatori e il fatto che quelli che restano non siano più remunerati, il CNEL apparentemente darebbe risparmi ma poi sono irrisori. E il terzo articolo che permetterebbe qualche risparmio è il fatto che i consiglieri regionali non possono essere remunerati di più dei sindaci dei capoluoghi. Però insomma, questa cosa si può risolvere anche alzando lo stipendio dei sindaci dei capoluoghi e non solo abbassando. Tra l'altro, professor Arrigo, per far capire ai nostri ascoltatori che stanno ascoltando le ragioni del sì, le ragioni del no, noi lo facciamo appunto rispetto alla par condicio, per lei non solo bisogna smitizzare la questione dei grandi risparmi, ma alla fin fine il risparmio che lei ha quantificato, diciamo 40 milioni, compensato col fatto che invece però molti senatori andranno diciamo in pensione, che daranno il vitalizio, alla fin fine il bilancio è che qualcosa, anche qualcosina si risparmierà secondo lei, oppure proprio è una riforma in perdita addirittura? Ma noi sostanzialmente spendiamo 300 milioni per fare il referendum, quindi andremo in attivo dopo 8-9 anni recuperando 40 milioni all'anno i 300 che quindi lei mette anche i costi, quello lo prevede la Costituzione, no, però non Dio. Si può però ricordiamo i nostri ascoltatori. Però se avessero fatto delle modifiche che erano accettate dalla grande maggioranza del Parlamento non ci sarebbe stato il referendum. L'abolizione del CNEL penso che si poteva fare con legge separata senza portarla a referendum, quindi una riforma in perdita di fatto. È una riforma in perdita, poi soprattutto cioè pasticcia, quindi il mio no, quindi io intervengo volentieri dalla parte del no, ma il mio no è soprattutto non per i costi, non è economico ma è giuridico politico. È l'articolo 70, cose di questo genere. Comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori che volendo, per incidere sui costi, ne abbiamo parlato ieri, basta applicare il metodo contributivo agli ex consiglieri regionali e ai loro vitalizi in essere, diritti acquisiti, ma no, però risparmiamo 1,4 miliardi in 10 anni, cioè c'è un ordine di grandezza, capisci? Cioè più di 3 volte superiore come risparmio anno facendo quella cosa di equità ha il totale degli effetti del referendum di cui stiamo parlando, più di 3 volte l'anno come ordine di grandezza solo sul tema applicazione del contributivo ai criteri dei vitalizi degli ex consigli regionali. Ecco, quindi se volesse la politica potrebbe fare. Professore, per concludere, sì, se posso aggiungere una cosa brevissima, la principale voce di spesa sia della Camera che del Senato sono le pensioni agli ex dipendenti e agli ex parlamentari, quindi sì. Questa voce di spesa non si elimina neanche abolendo quella Camera. Allora, noi professore la ringraziamo per aver portato le ragioni del no come quelle del sì, poi i nostri cittadini, è importante che siano consapevoli, si informino, ascoltino e si facciano un'opinione, poi il 4 dicembre vadano a votare. Caro Giannino, da Juventino, dico che sei inopportuno oltre che offensivo. Ovviamente, come sai, avendo letto da Juventino, sto leggendo il messaggio di un altro, di terzi, lo sapevo, ti porto il messaggio di terzi, non potrà mai essere mio. Ma chiedo scusa a tutti gli uomini. Va bene, dai. Incarnate lo spirito della più sportiva concorrenza mai avvalsasi di alcun tipo di favore. Mamma mia, puoi toccare le fidanzate degli italiani, no, ma il calcio è giusto no. Così, ma sorridete un po'. Emanuele da Roma, buongiorno, grazie per la pazienza, salve. Eccoci qua. Salve, mi sentite? Benissimo, sì. Dica. Qui volevo dire a proposito del problema dei dipendenti pubblici che francamente non sono molto d'accordo con l'atteggiamento, mi sembra eccessivamente censorio e moralizzatore dei conduttori, stile un po' Striscia la Notizia, perché volevo dire io faccio la Hunziker che sono biondo. Sì, esatto. Siccome i santi stanno in paradiso, e lo so per primo io e credo che lo sappiano anche i conduttori, premesso questo, io uno Stato in cui un lavoratore che prende 1200 euro al mese si debba sentire privilegiato, io non lo rispetto, lo Stato, e non sono un dipendente pubblico. Quindi ritengo che diciamo questo atteggiamento di mo famo menamo diciamo andrebbe fatto caso per caso anche nell'ambito dei 767, l'83%, che caso per caso dice? Ma mi scusi se urlo, ma ho una città bloccata a Capodanno, sono io il moralista? Ma dai. Secondo me sì, perché non, sì? Non mi riferisco a quell'episodio, ma anche quell'episodio. Io sì, invece. Scusi, ma anche io sul Mona. Io ho detto una cosa precisa. Ma privilegiato sono non moralista, è lo... Guardi, no, aspetti, però privilegiato, purtroppo Emanuele dobbiamo chiudere perché non è relativa allo stipendio, l'abbiamo detto, privilegiato perché hanno un posto di lavoro assicurato, perché per loro non si applica l'articolo 18. No, ma il criterio del nostro ascoltatore è che c'è sempre qualcun altro che accolto, facessero quello che voglio, ma noi mandiamoli a lavorare dipendenti pubblici, e chi li critica è un moralista, ovviamente. Vabbè. Emanuele, non le abbiamo tolto la parola, se vuole domani la richiamiamo, argomenta meglio, ma dobbiamo chiudere. Emanuele da Roma, domani argomenta meglio, teniamoci il numero. A domani, ciao.